Questo brano nasce dall'esigenza di mettere a nudo ciò che dal 9 luglio sta succedendo all'interno dei cancelli dei Campi Bisenzio della CKN, e nasce da un'esperienza che abbiamo vissuto con un operaio che ci ha invitato a fare un giro dentro lo stabilimento e appunto ci raccontava di quale fossero le sue mansioni, il suo lavoro, ci faceva vedere tutti i macchinari e non si capacitava di come da un momento all'altro poteva essere possibile che l'attività fosse cessata. Ivan, appunto, il nome della traccia, è un operaio molto cosciente, è arrabbiato, odia, prova tantissime emozioni, soprattutto perché fuori dalla fabbrica è completamente alienato, depressione, solitudine, eccetera, eccetera. E quindi volevamo proprio raccontare quello che ci stava trasmettendo in quel momento, perché nonostante lui si sentisse appunto una nullità, lui in realtà ci stava dando tanto, ci stava raccontando un'esperienza bella, perché bellissima, che è quella appunto di vivere una fabbrica, di lavorare con compagni e compagne, quello che poi nasce all'interno, e mi ha dato soprattutto l'ispirazione per fare questa traccia, appunto. Ivan in realtà non è una persona specifica, ma tu scrivi anche nella presentazione, è una rabbia collettiva. Esatto, la rabbia di tutti gli operai, quasi 500 persone che da quel 9 luglio sono state mandate a casa, ecco. Non solo la sua, ma di tutta la classe operaia del paese, diciamo, di tutti gli sfruttati di questo paese. Una cosa che mi ha colpito particolarmente raccontando la storia dalle nostre frequenze della GKN, e una cosa che traspare anche nella tua traccia, è la grande coscienza di classe, si diceva una volta, di questi lavoratori. Esatto, sì, perché da quella giornata si sono create situazioni che magari fino a poco tempo prima non pensava uno nemmeno che potessero crearsi. C'è una grande famiglia all'interno dei cancelli, c'è grossa solidarietà da parte dei solidali, da parte dell'SU, è veramente un posto diverso da tutto quello che c'è fuori, ecco. Ivan per il momento appunto è una nuova traccia, so che nascerà anche un video. Sì, esatto, i lavoratori, il collettivo di fabbrica sta realizzando questo video appunto con le varie immagini, tutta la realtà dello stabilimento, e non so quando uscirà, però ecco, a breve. Ti faccio una domanda più generale che riguarda appunto la musica e la scena italiana. Canzoni di impegno sociale e politico non sembrano più molto di moda oggi, insomma, in Italia. Invece la tua va un po' in controtendenza. Tu cosa ne pensi? Sì, esatto, penso che il nostro genere nasce come denuncia di disagio sociale, però negli ultimi anni questa cosa è venuta un po' meno, perché la musica è mercificazione, è denaro, è tutto quello che fondamentalmente, io parlo personalmente, anche se non mi piace parlare in prima persona, però non mi rispecchia, c'è bisogno di dare un cambiamento, perché la situazione è veramente grave, quindi c'è bisogno che la musica si trasformi come mezzo importante per sollevare la lotta. E allora io, tenore, ti ringrazio, adesso ci andiamo ad ascoltare proprio Ivan. Grazie a voi, ragazzi, grazie a voi.